con Ludovica e Luca per presentare il loro podcast Cassandra online. Ben trovati. Ciao. Ciao. Ciao. Ci raccontate un po' di cosa si tratta? Cassandra è un podcast sulla condizione giovanile. L'idea di fare questo podcast è nata perché volevamo dare voce a come ci sentivamo, no? Come siamo due ragazzi giovanissimi, cioè abbiamo 22 e 24 anni. Siamo usciti da questo periodo pandemico un po' zoppicando psicologicamente come tutti e come tutte. E abbiamo detto che vogliamo fare un podcast di questa cosa. Quindi siamo letteralmente chiusi in una stanza per un po' di giorni ed è uscita la prima puntata. Quindi in realtà Cassandra non ha un tema specifico, cioè andiamo molto anche a sentimento. Nelle... parla di noi più che altro. Esatto. Un po' di tutte e tutti, anche amici, amiche in generale con cui magari abbiamo parlato in questo momento storico, parte molto da noi, dalla nostra esperienza, nonostante poi Ludovica e io mettiamo nel podcast diverse cose che magari riguardano libri che abbiamo letto, cose che abbiamo studiato, che riguardano sia la psicologia, la sociologia, l'antropologia, però cerchiamo insomma di renderlo comprensibile, ecco, di non fare un discorso teorico che non ha magari né capo né coda, molto stretto. Ecco, sì, ci sono varie suggestioni, a quali, ecco, per fare anche un po' di chiarezza per chi ascolta, a quali avete attinto? Cassandra comunque è un podcast schierato politicamente. Allora, secondo me una cosa molto interessante è che ogni tanto ci chiedono: ma voi siete un podcast politico? E in realtà a me mi pare abbastanza evidente che siamo un podcast politico. Esatto. Poi dopo magari non è che abbiamo uno schieramento esatto, ma più che altro perché ci piace magari stare nella confusione e mischiarci un po' con varie contaminazioni. Cioè appunto non è che magari siamo il podcast di questo tipo di movimento, anche perché magari molti amici che ci ascoltano e amiche magari non hanno neanche uno schieramento di movimento, magari noi veniamo da una storia attivista, quella di Ludovica è diversa dalla mia, però comunque vorremmo cercare di creare delle nuove pratiche politiche tramite il dialogo, senza per forza andare a riprendere strumenti vecchi, passati, o che magari per qualcuno sono anche un po' strani o difficili da capire, ecco. Qual è il futuro che prefigurate in qualche modo? Boh, in realtà adesso abbiamo in progetto di fare 8-9 puntate che, come le prime, vengono pubblicate anche per ora sul SoundCloud di Not, di Nero Edition. Insomma, loro ci stanno pubblicando queste puntate su SoundCloud e abbiamo in programma di farne altre 8-9. Poi, non lo so, in realtà non abbiamo proprio un... Sì, esatto, ma anche perché poi alla fine il tema un po' a volte del podcast è proprio cercare di rimmaginare un po' il nostro futuro, quindi a volte c'è una contraddizione in termini, nel senso che noi che immaginiamo Cassandra e Cassandra che cerca di immaginare le nostre vite future, quindi è un po' una contraddizione in termini a volte, però sì, come diceva Ludo, più o meno 8-9 puntate sono quelle che pensavamo di fare, perché abbiamo tanti spunti. Poi la cosa secondo me molto bella che fa sempre Ludo quando scrive di script è di cercare di dare un nome ad ogni puntata che rispecchi un po' una sensazione delle persone. Per esempio la puntata zero, che è la puntata sulla stanchezza, parla di uno stato d'animo, piuttosto che parlare magari di dare un titolo come un titolo di un libro che magari è un po' più astratto, no? E quindi esce un po' dagli schemi, invece questo è molto quotidiano e molto vicino a tutte e tutti. Sono un po' tutti simili tra loro per quanto riguarda proprio la struttura? In generale pensavamo di sì. Per ora le prime puntate che abbiamo pubblicato iniziano con un monologo, che in realtà scrivo a braccio, quindi iniziano con un monologo, poi c'è la sigla e poi di solito sono io che parlo del tema. Però in realtà adesso stiamo programmando la terza puntata, che parlerà della rabbia, e abbiamo in programma di fare un'intervista. Quindi lì vogliamo mettere un'intervista, che tanto è un'intervista, se riusciamo a organizzarla, speriamo, a una compagna cilena. Quindi pensiamo un po' di parlare della situazione del Cile e di metterci appunto un'intervista. Quindi in realtà potrebbero anche variare le strutture delle prossime puntate. C'è anche della musica. Eh sì, la musica in realtà è parte integrante del progetto, cioè la musica è sempre in comunicazione con il testo, sia dal punto di vista del significato dei testi, sia dal punto di vista del continuum di significato, esatto, tra testo e musica. Lo utilizziamo proprio come parte integrante, fa parte proprio della narrazione stessa della puntata, perché entrambi siamo appassionati di radio e quindi in generale ci piaceva far finta che fosse una sorta di radio, quindi tipo fake radio, no? Come ti dicevamo qualche giorno fa, lo pensiamo così Cassandra, e quindi sostanzialmente la musica appunto cerca di accompagnare, come spesso accade nei podcast, in sottofondo magari quando lei parla, la voce narrante, e poi in generale ci sono questi stacchi musicali che sono particolarmente significativi. Per esempio nella puntata zero ci sono gli Eiffel 65 come primo pezzo con la canzone In Blue, che racconta proprio della nostra condizione, che ci sentivamo in quel momento, abbiamo detto questa è perfetta, oppure c'è A.G. Cook con 2021, diciamo che cerchiamo di trovare delle musiche che possano raccontare ancora meglio quello che sentiamo, quello che vogliamo cercare di dire e lo musicano, no? Ci lasciate tutti i riferimenti web per maggiori dettagli? Sul SoundCloud di Nero, perché per ora distribuiamo le puntate solo lì, anche se in questo momento stiamo pensando magari di raggiungere piattaforme tipo Spreaker, perché abbiamo visto che alcune persone ci chiedono. Comunque ci trovate sul SoundCloud di Nero e abbiamo le pagine Instagram e Facebook. Esatto. E per ora quindi questo. Come k.assandra.podcast. Il podcast Cassandra online, un saluto e un ringraziamento a Ludovica e Luca. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un abbraccio, ciao. Ciao a tutti e a tutte. Ciao. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Donatella May, regista dello spettacolo Scompensati, quasi vivi, quasi attori tragicamente veri. A Roma, Teatro di Documenti, dal 1 al 3 luglio 2021. Donatella, ben trovata. Ciao, grazie, ben trovato a te e a tutti voi. Ci racconti? Siamo 8. Perché c'è anche l'Ancillotto, no, non c'è, però siamo 7 attori e una clown. Sono 7 monologhi, che ho scritto io peraltro, sono 7 monologhi ironici, autoironici, di personaggi con caratteracci, ecco, caratteracci autoironici e avventure, cose più o meno provocatorie, alcuni, altri no, sono semplicemente autoironici, alcuni satirici, e poi c'è questo clown femmina, una donna clown, che è una specie di Virgilio, accompagna un pochino, non tutti i pezzi, ma ci sono questi inserti della clown, che si chiama Donatella Morabito, si chiama come me. Gli attori sono Marina Vitolo, professionista comica bravissima, Vittorio Sagat, Franca Iannaccone, Marianna Di Maso, Francesca Campagna, Alessandra Ligarò, Donatella Morabito l'ho detto e Donatella May. Com'è nato il progetto? Da una serie di scritti che mi sono ritrovata, di racconti brevi o comunque monologhi, che in questo periodo di lockdown ovviamente abbiamo tutti scritto, quindi ne avevo 3 che intendevo mettere in scena, ne ho scritti altri 4 e quindi ho deciso di metterli in scena, anche perché fatti da me non avrebbero avuto un gran senso, nel senso che sono molto più coloriti e colorati fatti da altre persone, perché sono voci diverse, e quindi ho pensato che volevo rifare una cosa corale con tante persone. Come si articolano tra loro? Sono legati da piccole cose che non voglio dire, perché sennò svelo tutto. Ci sono delle musichette, sono legati da piccoli incroci tra personaggio e personaggio o tra clown e personaggio, e da un filo rosso che è un po' il disagio in qualche modo, il disagio esistenziale, va? Mettiamola sul classico, ma sai che io adoro i classici, quindi è un classico provocatorio, non so come dire, ecco. E la scelta degli interpreti? L'ho fatta oculatamente. Marina Vitolo è una collega che conosco da tanto tempo, la Ligarò l'ho conosciuta da poco ma l'ho vista recitare e mi era piaciuta molto, Sagat l'ho visto in uno spettacolo proprio lì al Teatro di Documenti ed era perfetto per quel monologo che io avevo scritto, mi serviva un uomo e quindi lui era perfetto. Francesca Campagna ha già lavorato con me nello 0202, sempre lì ai documenti. La Di Maso me l'ha presentata Francesca ed è effettivamente bravissima e dà un senso, ha illuminato uno dei monologhi di cui ero un po' preoccupata, e invece è uno dei migliori adesso perché non era facile. La Morabito, la clown, l'avevo già vista e la volevo già coinvolgere per lo 0202, ma lì non è stato possibile, quindi l'ho coinvolta adesso. Franca Iannaccone l'ho conosciuta quest'anno, abbiamo scritto una cosa insieme, è autrice, lei molto, e anche attrice, e quindi era perfetta peraltro per quel pezzo. Lo spazio non è neutrale, il teatro dei documenti è un posto magico. Ecco, come si muove dentro questo spettacolo? Si muove in tutto lo spazio, perché io l'avevo pensato per lo spazio sotterraneo, che sono due spazi comunicanti. Originariamente volevo farlo tra i due spazi, lo volevo fare elastico, volevo fare uno spettacolo elastico che si potesse muovere in vari spazi. Poi sotto non è più stato possibile e quindi lo facciamo sopra, che è un grande ovale, e utilizziamo quasi tutto lo spazio. Lo spettacolo Scompensati, quasi vivi, quasi attori tragicamente veri, a Roma, Teatro di Documenti, dal 1 al 3 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e regista Donatella May. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie, crepi il lupo, alle ore 20, non 21, alle ore 20. Grazie a te, Federico, buon proseguimento di giornata, spero di vedervi là. Spero di vedere te là. Ciao, grazie, grazie, grazie. Con Tiziano Panici, direttore dell'ottava edizione di Dominio Pubblico a Roma, Spazio Rossellini, dal 26 giugno al 4 luglio 2021. Ben trovato. Ben trovato a te, Federico. Gli ascoltatori, ovviamente partiamo con, diciamo, un'errata corrige, visto che oggi è il 25, il festival, l'ottava edizione di Dominio Pubblico avrebbe dovuto debuttare stasera al Teatro Inca, ma purtroppo abbiamo dovuto anche noi adeguarci a una situazione che ormai va avanti da diversi giorni, con questi scioperi appunto manifestati dal sindacato Libertind. Senza, diciamo, entrare più di tanto nel merito della questione, comunque siamo stati costretti a trovare una soluzione alternativa. Fortunatamente Spazio Rossellini era già uno degli spazi del festival, già dallo scorso anno durante la fase di pandemia. È un luogo dove, insomma, abbiamo portato e attraversato tutto l'anno le nostre attività, e quindi per fortuna buona parte del programma è stato possibile recuperarla, trasferirla qua, e si parte con tutta l'energia che avevamo voglia di investire in questo progetto. Ricordo che Dominio Pubblico è un festival che viene pensato insieme ad un gruppo di ragazzi sotto i 25 anni, ragazzi e ragazze che tutto l'anno lavorano alla realizzazione del programma, scegliendo in prima persona gli artisti e venendo affiancati da una serie di professionisti che fanno parte del nostro network e collaborano con noi alla scelta e alla selezione. Quindi è un momento che attendavamo, proprio perché si sta finalmente un pochino riaprendo, nonostante poi appunto le riaperture stanno portando anche dietro di sé moltissimi disagi e problematiche chiaramente legate al mondo del lavoro. Per tornare un attimino alla parentesi iniziale, anche per far capire un po' meglio la situazione, alla cittadinanza che si trova di fronte a questa situazione di fatto, a me sembra, vedendola un po' da fuori, che questo scontro tra amministrazione, tra istituzioni e lavoratori stia colpendo in qualche modo altri lavoratori, in questo caso artisti e artiste. Sì, confermo, e purtroppo confermo ricordando a chi forse l'ha dimenticato che anche proprio nella prima riapertura dello scorso anno del lockdown noi abbiamo fatto il festival, abbiamo dovuto traslare le attività di due mesi, ma è stato un piccolo miracolo riuscirlo a realizzare comunque, e partimmo proprio dall'estiva al Teatro India e poi anche negli spettacoli trasmessi in streaming a Rossellini. E già l'anno scorso purtroppo il Teatro India era scosso da agitazioni sindacali che purtroppo non si sono risolte, perché poi c'è un problema anche all'interno della dirigenza. Comunque è un teatro nazionale che da un anno è senza una direzione stabile, quindi è chiaro che mancando un indirizzo chiaro sia politico che dirigenziale ci sta facendo molta fatica chiaramente, credo, a trovare una soluzione. Però di questo non credo che non debba essere io in quanto artista ottica a parlarne. Certo. Stiamo vivendo una condizione di riflesso e ci dispiace soltanto che a pagarne poi un pochino le conseguenze siano anche le attività ospiti. Il nostro è un progetto anche di estate romana, ci sono altri tre eventi ospiti che entreranno nel corso dell'estiva, che spero riescano invece a fare la loro attività, anche perché per noi significa perdere un anno di lavoro sostanzialmente. Sì. Allo Spazio Rossellini cosa succederà? Apriamo con un match, uno scontro generazionale, è un format ideato dal Teatro degli Scarti di La Spezia, dove abbiamo coinvolto in questa prima puntata Claudia Marsicano, un'attrice under 35 che ha vinto il premio Ubu nel 2017, che si confronterà con Francesca Benedetti, invece un'attrice rappresentativa di quello che è il teatro classico italiano, e sarà stato un confronto sul palcoscenico. Speriamo quindi di andare oltre alle polemiche appunto che attraversano il mondo del lavoro in questi giorni, entrare invece nella discussione sui contenuti e sulle tematiche che i ricambi generazionali di estetica e di poetica portano con sé sul palcoscenico. Scusami, a questo punto apro un'altra piccola parentesi simpatica. La foto, tra l'altro, di Claudia Marsicano è quella a cui è dedicato il mio blog, cioè un'immagine sua in una posizione di performance che insomma descrive un po' il mio blog, Tutta Scena 1. E che sembra quasi una posa da combattimento, non so se l'hai notato, insomma, sì. molto combat, l'abbiamo scelta apposta. Alle 18:30 faremo un opening per salutare il nostro pubblico, anche aggiornarli sul programma, su quello che è cambiato. Alle 19 si va in scena con il match, a seguire alle 21:30 in programma Peregrinaciones, uno spettacolo che viene dalla scuola Nico Pepe di Udine, perché ricordo a tutti che il palco di Dominio è fatto per ospitare soprattutto progetti under 25 di artisti che sono al loro esordio, quindi ecco, un'ulteriore fragilità da tutelare e conservare. E a seguire ci sarà un concerto dell'artista Alix, che fra l'altro è stata anche sul palco del Teatro di Roma con il progetto Metamorfosi quest'anno. E domenica 27 abbiamo l'eventone, diciamo, del festival, ovvero Storie della Buonanotte per Bambini Ribelli, con Margherita Vitario, accompagnata dall'Orchestra Multietnica di Arezzo, e purtroppo, mi piace dirlo, ricordo a tutti che è sold out, è già da 10 giorni l'evento, però vi invito comunque a venire domenica, perché noi siamo qui dalle 16, ci sarà un incontro talk con Margine Operativo e Luca Lotano della redazione Meticcia, per un percorso molto interessante che mette a confronto terze generazioni e rifugiati con invece ragazzi che hanno iniziato ad esplorare il mondo del teatro e della cultura. E poi a seguire appunto ci sono i resto degli appuntamenti della giornata fino al concertone finale, e vi invitiamo a rimanere in collegamento a vedere il nuovo programma sulla nostra pagina www.pubblicoteatro.it, considerando che gli appuntamenti continuano anche tutta la prossima settimana, si concentreranno in particolar modo dal 1 al 4 luglio, quindi sono ecco due weekend tutti da seguire, da esplorare. E per chi ci sta ascoltando, lo spazio Rossellini è uno spazio che si trova a Via della Vasca Navale, quindi dopo il Ponte Marconi, in una zona ancora un po' celata di Roma, su cui però noi da tempo stiamo lavorando e vorremmo, diciamo, rimettere un po' la luce. Quindi vi accoglierà uno spazio comunque molto particolare, se non ci siete mai stati sarà una bellissima prima esperienza. Quindi seguiteci sulla nostra pagina Facebook, su Instagram, su tutti i nostri social, così vi terremo man mano aggiornati su quello che succede. Ottava edizione di Dominio Pubblico a Roma, allo Spazio Rossellini, dal 26 giugno al 4 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore Tiziano Panici. Un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie Federico, grazie a tutti voi. Con Laura Aluisi dell'Associazione Controchiave per presentare la 28ª edizione della Festa per la Cultura a Roma, Scuola Principe di Piemonte, dal 2 al 4 luglio 2021. Ben trovata. Ben trovati a tutti voi. Ciao Federico. Raccontiamo questa festa dalla lunghissima esperienza. Sì, è una festa longeva, nasce in realtà nel lontano 1994 come festa per la musica, poi nelle varie edizioni a partire dal 97 si è evoluta, è diventata una festa per la cultura. Prima si svolgeva nel quartiere di Garbatella, quindi noi circoscrivevamo delle vie del quartiere, le chiudevamo al traffico e allestivamo per una giornata, che era il primo o il secondo sabato di giugno in genere da tradizione, dei palcoscenici in strada, in un quartiere che di fatto fatto per sua natura un palcoscenico naturale. Poi da alcuni anni abbiamo fatto la scelta di trasferirci invece nel parco giardino della scuola Principe di Piemonte, nel quartiere appunto San Paolo Ostiense. La scuola ha questo bellissimo giardino dove ci sono varie situazioni, piazze che vengono allestite per ospitare gli artisti che di anno in anno ci vengono a trovare. La festa si allunga, quindi anziché una sola giornata sono 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. Raccontiamo anche un po' l'esperienza di Controchiave. Controchiave quest'anno arriva al suo 30° anno di vita, è un'associazione culturale quindi che si è consolidata non solo nel quartiere ma a Roma, e quindi negli anni ha intessuto tanti rapporti con centinaia di artisti, e tra le sue finalità proprio statutarie c'è quello di rendere l'arte e la cultura come mezzi per spiegare le dinamiche sociali. Ogni situazione che fa parte della nostra progettualità artistica e culturale vuole riportare alla luce tutta la creatività che viene dal basso, e quindi in tanti anni abbiamo costruito questa rete con artisti, attori, danzatori, fotografi, writer, per intersecare i vari linguaggi artistici, e la festa diventa un melting pot, quindi una grande occasione per dimostrare e far vivere la cultura in modo alternativo, che non sia solo quello magari calato dall'alto, ma che sia realmente partecipata. Tanto partecipata che quest'anno anche i nostri, chiamiamoli eredi, giovani ragazzi di Controchiave avranno uno spazio tutto loro, di cui poi se vuoi vi parlo. Parliamo un po' di come si articoleranno queste 3 giornate, quanti eventi ci saranno. Quanti? Ho difficoltà a dirvelo perfino io, perché sono tantissimi eventi, tutti diversificati. Vi accennavo prima che la giovine Controchiave, come la chiamiamo noi, avrà proprio tutta una sua piazza dedicata al movimento Fridays for Future, e quindi i ragazzi metteranno in scena tutto un loro programma di musica in modo particolare. Ci sono 3 ospiti che vi voglio citare. Ci sono Laura Lala, che farà un concerto che si chiama Il Coraggio. Poi avremo di nuovo con noi Peppe Servillo con Natalio Mangalavite, e faranno uno spettacolo di teatro canzone che si intitola Il resto della settimana. E poi Carlina Torta, sempre con uno spettacolo di testi e musica, A cercare insieme i fiori, assieme a Riccardo Tesi. Poi ci saranno spazi dove ci saranno presentazioni di libri, ci saranno spettacoli di danza, tra cui la rassegna appunto Estratti di danza, ci saranno mostre fotografiche, quindi gli interventi e ovviamente concerti, tanti tanti concerti. E questo è come si articoleranno i vari giorni. Quindi chi ci viene a trovare troverà un programma fittissimo che può vedere anche sul nostro sito, diviso per giorni, e può orientarsi. Ovviamente non da ultimi ci saranno degli spazi dedicati ai bambini, che noi da sempre seguiamo con attenzione, quindi per dedicare a loro spettacoli e iniziative adatte. Da che orario si parte fino a che ora? Per le iniziative anche dei bambini dalle 16:30 circa, poi per gli spettacoli e interventi artistici da circa le 18, e poi si finisce tarda sera, compatibilmente insomma con le esigenze che ancora ci impone la pandemia, no? Quindi noi dovremo comunque rispettare delle situazioni di distanziamento, di attenzione, anche se all'aperto poi la mascherina non sarà più obbligatoria, però comunque ci saranno tutte le condizioni di rispetto delle norme anti-Covid. Ovviamente ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Tutte le informazioni e quindi anche il significato della festa, ma anche tutto il programma dettagliato, si trova alla nostra pagina web, che è controchiave.it. Nella pagina Festa per la Cultura sarà possibile visualizzare tutto il programma della festa. Poi ovviamente c'è la nostra pagina Facebook Controchiave, e lì tutti i post che di volta in volta raccontano un pezzetto del nostro programma, e quindi avranno modo di approfondire le cose che incuriosiscono di più, anche perché la festa quest'anno non finisce proprio il 4, ma proseguirà anche il 10, perché il 10 c'è un appuntamento teatrale al mausoleo garibaldino, dove presenteremo uno spettacolo dedicato alla Repubblica Romana. Infatti si chiama appunto La Romana Repubblica, quando il popolo diventò sovrano. Ovviamente tutta questa manifestazione quest'anno rientra nei programmi dell'estate romana con la collaborazione del Comune di Roma. La Romana Repubblica, spettacolo che tra l'altro abbiamo già ospitato in radio. Sì, sì, ne avete parlato. Poi adesso che ci sono molti dibattiti sullo stato laico e quindi la cosa diventa sempre attuale. Ecco, la caratteristica di Controchiave negli anni è stata sempre quella di parlare, oltre che del proprio tempo, di anticipare anche certi dibattiti, di riprenderli anche quando non andava di moda parlare di un tema piuttosto che di un altro, e questo sempre con l'idea di far interagire i linguaggi artistici tra loro, di contaminarli. Questo ovviamente fa parte non solo della produzione artistica di Controchiave, ma anche di tanti artisti che lavorano da anni con noi e che nelle varie edizioni abbiamo rincontrato. 38ª edizione della Festa per la Cultura a Roma, Scuola Principe di Piemonte, dal 2 al 4 luglio e in più il 10 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento a Laura Aluisi dell'Associazione Controchiave. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie, viva il lupo e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie per l'ospitalità. Con Linda Di Pietro, regista dello spettacolo La Casa sull'Albero, ad Ariccia, al Parco di Villa Chigi, il 3 e 4 luglio 2021. Linda, ben trovata. Ciao a tutti, buongiorno, ben trovato a te Federico. Ce ne parli? È uno spettacolo che nasce, come sempre mi succede, perché rimango colpita da una storia, e in questo caso è la storia di un attivista, di un ambientalista che si chiama Julia Butterfly Hill, una storia che appartiene a qualche anno fa. Questa ragazza si è trovata coinvolta in California in una devastazione dell'ambiente naturale ed è rimasta folgorata da queste sequoie giganti che ci sono nella foresta di Redwood in California occidentale, e ha scoperto che rimane ormai il 3% di queste foreste, che è un dato veramente impressionante, e quindi decide così, senza mai essere stata prima un'ambientalista, di occupare un albero, che è una pratica ormai diffusa. Ci sono occupazioni anche tuttora in Europa, in Germania, di cui è stata protagonista Carola Rackete, per esempio. È una pratica diffusa e nello spettacolo si dice è l'ultima spiaggia. Quando si decide di occupare un albero vuol dire che la società ha fallito, che i governi hanno fallito, perché in qualche modo noi dipendiamo dall'ambiente naturale, e quindi la devastazione e l'uso che facciamo di tutte le risorse che abbiamo a disposizione sul pianeta è qualcosa che ci danneggia continuamente, eppure continuiamo a farlo. Quindi questo spettacolo racconta questa storia e racconta anche una storia di perseveranza, no? Di una giovane che decide di fare la differenza e decide di cambiare le cose come può. Per cui lei sale pensando di rimanere lì una settimana e rimane lì 738 giorni, più di 2 anni. E mi ha colpito moltissimo perché è un modo veramente incredibile di approcciare alla vita, no? A quello che non ci piace, a quello che vogliamo cambiare, qualcosa che mi ha veramente toccato, e quindi ho cominciato questa ricerca, ho cominciato a lavorare con la mia compagnia Arti in Movimento e abbiamo creato un percorso immersivo, perché ci sembrava giusto che questo spettacolo, questa storia avesse un'ambientazione in un contesto naturale. Quindi abbiamo scelto per questa avventura il parco di Villa Chigi ad Ariccia, che tra l'altro contiene alcune sequoie. Quindi ai piedi di una di queste sequoie Letizia Lezza sarà appunto la protagonista di questa storia. Accanto a lei c'è Cristiano Leopardi, che sarà il capo degli attivisti, Geronimo, e una serie di personaggi che introdurranno attraverso alcuni percorsi e il racconto di alcune parti di questa storia al pubblico alla parte finale, in cui verrà raccontata proprio la vicenda di Julia Butterfly. Quindi un percorso immersivo e uno spettacolo teatrale. Come avete immaginato la rappresentazione? È stato molto particolare perché cercando la location giusta abbiamo poi incontrato questa sequoia che insomma poi ce la siamo abbracciata quando l'abbiamo trovata all'interno del parco perché ci è sembrato anche un segnale, no? Che in qualche modo, e quindi è venuto un po' da sé immaginare di costruire una sorta di struttura, di piattaforma ai piedi di quest'albero per ricreare l'illusione. In realtà Julia Butterfly ha vissuto a 50 metri d'altezza, quindi esposta alle intemperie, al freddo, ai venti forti, ha vissuto delle cose veramente estreme, per cui abbiamo ricreato chiaramente sempre con escamotage teatrali questa dimensione di sospensione in cui lei si trovava. E in effetti abbiamo poi all'interno dello spettacolo anche alcune persone della compagnia Materia Viva che daranno vita a alcuni momenti di acrobatica aerea tra gli alberi, quindi c'è una funambola, Lucia Rizzo, abbiamo avuto Alessandra Lanciotti che si appendeva a un albero e faceva un monologo mentre era sospesa su un cerchio, quindi abbiamo voluto restituire questa dimensione perché questi attivisti sono effettivamente degli acrobati, perché riescono ad arrampicarsi ad altitudini, perché comunque rischiano la loro vita, infatti di tanto in tanto ci rimettono anche la vita e raccontiamo anche questo purtroppo, e quindi diciamo che via via che ci addentravamo nella storia venivano fuori questi elementi che ci hanno portato poi a tutte queste collaborazioni, ad esempio quella con Materia Viva, che ci hanno permesso poi di creare uno spettacolo che avesse momenti anche di teatro non convenzionale. Insomma. Ci lasci tutti i riferimenti per i dettagli? Lo spettacolo andrà in scena il 3 e 4 luglio, per tutti e due giorni ci sarà una doppia replica alle 17 e alle 18.30. Per prenotarsi basta mandare un messaggio WhatsApp, perché ovviamente siamo contingentati, quindi occorre prenotare, al numero 392-2561-362 e su Facebook trovate l'evento La Casa sull'Albero. Lo spettacolo La Casa sull'Albero ad Ariccia, Parco di Villa Chigi, 3-4 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento alla regista Linda Di Pietro della compagnia Arti in Movimento. Un in bocca al lupo e a presto! Crepi, grazie Federico, a presto! Con Isabella Di Cola, curatrice del progetto Radure, spazi culturali lungo la via Francigena del Sud dal 19 giugno al 1 agosto 2021. Ben trovata! Ben trovato, buonasera a tutte e a tutti. Cos'è Radure? È un festival di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio dei Monti Lepini. È un festival che valorizza i luoghi, ma che valorizza soprattutto le persone e le espressività, in particolare le espressività artistiche che insistono su questo territorio bellissimo che è periferico rispetto a Roma, ma baricentrico rispetto per esempio alla distanza che c'è tra Napoli e Roma. È un territorio ricco di bellezze storiche, architettoniche, enogastronomiche, spirituali. Ci sono gli ultimi 100 chilometri della via Francigena e sono moltissime le associazioni culturali e le compagnie che professionalmente operano su questo territorio. Quindi questo festival nasce all'interno di un progetto che è un sistema di intervento integrato, ovvero le invasioni creative. Dal 2018 abbiamo iniziato una serie di azioni di prossimità su questo territorio ed in particolare con il comune di Priverno. Abbiamo iniziato con una residenza in comune, ovvero la presenza di un operatore culturale presso gli uffici cultura del comune di Priverno, e nell'ambito di questa residenza abbiamo sviluppato tutta una serie di attività di formazione e capacitazione territoriale. Quindi da una parte abbiamo aiutato lo staff del comune ad efficientare i processi organizzativi che sottendono l'organizzazione di eventi culturali, abbiamo lavorato alla progettazione europea e abbiamo poi coordinato le pratiche di dialogo con appunto le realtà locali. Nell'ambito di questo sistema di intervento integrato abbiamo risposto a un bando della regione Lazio, l'avviso pubblico per la valorizzazione dei beni culturali attraverso lo spettacolo dal vivo, e da 3 anni questo bando ci finanzia e ci permette di portare avanti questo festival a cui siamo tanto affezionati, che è un po' la sintesi degli obiettivi di questo progetto Invasioni Creative, ovvero l'incontro tra artisti di passaggio, di caratura nazionale, artisti residenti di altissimo livello, perché poi ci sono compagnie veramente molto interessanti da un punto di vista estetico, artistico, e la collaborazione del territorio da tutti gli ambiti del vivere civile, quindi dal sociale alla scuola al turismo. Quanti sono gli appuntamenti in questo mese e mezzo abbondante? 12. Dunque, i comuni che attraversiamo con Radure sono 6: Sezze, Segni, Maenza, Cori, Norma e Priverno. Il comune capofila è Priverno. Per ogni comune ci sono 2 spettacoli con un ospite d'onore, quindi l'ospite di passaggio, e un ospite locale. Le compagnie locali partecipano da 3 anni, sono 5, quest'anno sono 6 perché è entrato il comune di Cori, che fino all'anno scorso non era in rete con gli altri comuni, e quindi sono in totale 12 spettacoli, 2 per comune. Ci lasci tutti i riferimenti web per i dettagli? Sul sito della Compagnia dei Lepini, che è l'ente territoriale partner strategico fondamentale per queste 3 edizioni del festival, trovate la pagina dedicata al Festival Radure 21, terza edizione. Tutte le informazioni saranno condivise su chiaramente la pagina Facebook ATCL, le singole pagine dei comuni. E una cosa mi sono dimenticata di dirvi che è fondamentale, che è l'innovazione di questa edizione. Le 6 compagnie quest'anno sono state protagoniste di un percorso di residenza presso i luoghi oggetto di valorizzazione. Dal mese di aprile, quindi in piena chiusura di lockdown, perché eravamo ancora, soprattutto quella zona, c'erano proprio delle chiazze rosse nell'ambito del giallo della nostra regione, hanno iniziato a lavorare sui beni che gli sono stati assegnati e stanno producendo delle opere inedite, site specific come si dice oggi, quindi creeranno delle opere totalmente originali che diventeranno un archivio di bellezza, un atlante che racconta il territorio e l'identità di questi luoghi, con degli accompagnamenti artistici di eccellenza, che sono la compagnia Bartolini Baronio e l'artista Andrea Cosentino. Bartolini Baronio e Andrea Cosentino stanno seguendo ciascuno 3 percorsi residenziali, e per ogni data di restituzione di questi percorsi saranno presenti in 6 delle tappe di Radure. Questa era una cosa importantissima che mi stava sfuggendo, ma ci tenevo veramente tanto a dirlo, quindi vi invito a visitare il sito della Compagnia delle Pini Radure terza edizione, la pagina Facebook ATCL, la pagina Facebook della Compagnia delle Pini, e presso tutti i comuni ci saranno indicazioni e condivisioni di questa manifestazione. Il progetto Radure, spazi culturali lungo la via Francigena del Sud, dal 19 giugno al 1 agosto 2021, un saluto e un ringraziamento alla curatrice del progetto, Isabella Di Cola. Un in bocca al lupo e a presto! Viva il lupo e grazie! Grazie a te! Con Max Mazzotta, che ha scritto, diretto e interpretato lo spettacolo della compagnia Libero Teatro Vite di Genius al Campania Teatro Festival il 2 luglio 2021. Ben trovato, Max. Ben trovato pure a te e a voi. Ci racconti di questo progetto? È un progetto che nasce un po' di tempo fa nella mia mente, nella mia urgenza, diciamo, poi piano piano, diciamo che nella pandemia si è sviluppato poi in maniera più completa. Ho avuto la possibilità tramite la pandemia, anche se è una cosa un po' antipatica dirlo, no? Però c'è stato più tempo per fare delle riflessioni, ecco, diciamo. Per cui in questa pandemia ho lavorato e alla fine adesso è uscito fuori questo spettacolo. È uno spettacolo a cui tengo tantissimo, uno spettacolo che parla alla fine di questo personaggio che muore, che si chiama Genius, che è un personaggio del futuro, del 2800. Muore e io racconto, diciamo, il percorso che fa quest'anima, almeno la prima parte, diciamo un percorso post-mortem, ecco. È un po' anomala come situazione, nel senso che noi nel passato non abbiamo assistito, diciamo, a personaggi, a eroi, a personaggi, diciamo, antichi, dove magari da vivi loro viaggiavano, diciamo, nel regno dei morti, ecco. In questo caso è un viaggio da morto, quindi mi sono immaginato comunque questo viaggio di quest'anima attraverso gli stati della materia. Quindi prima diventa acqua, diventa aria, diventa terra, poi diventa spazio, poi diventa tempo, fino ad arrivare alla vibrazione, cioè per, diciamo, la purificazione totale di qualsiasi brandello di materia. E questa, diciamo, che è una prima parte. Poi la seconda parte è il ricordo, cioè quest'anima a un certo punto, dopo essersi purificata, deve ricordare le sue vite precedenti, insomma, le vite che ha vissuto per risolvere un po' i suoi impedimenti karmici. E allora questo ricorda quattro vite nell'arco di 1000 anni, dal 1800 al 2800. E quindi vive queste quattro vite, una è la vita di una vecchietta di un paese in Calabria del 1800, questa vecchietta che noi la vediamo che va a riempire questa brocca alla fontana, e qui ricorda il suo passato. Nel suo passato c'è un fatto molto brutto, dove un ragazzino che era un suo amichetto, di cui lei era innamorata, questo ragazzino muore cadendo in un pozzo. In un certo senso lei si sente in colpa perché lo trascina lei a giocare nei pressi di questo pozzo, e alla fine lui cade dentro e lei non fa nulla per poterlo aiutare perché era piccola, si sente terrorizzata da questo fatto, quindi si sente in colpa per tutta la vita per questa storia. Poi la seconda storia invece, siamo nell'Italia degli anni 60, dove lui è un venditore di scarpe che si innamora di una ragazza. Questa ragazza però c'ha un fratello ossessionato da lei, psicopatico diciamo, e alla fine questo fratello uccide questa ragazzina, anche un pochino per colpa sua, nel senso che lui non fa niente per aiutarla, quindi ha un secondo impedimento verso l'altra persona. La terza reincarnazione invece, lui è un fratello che chiude in questa casa di cura un altro suo fratello. Siamo nel 2180, ci sono un po' Caino e Abele, diciamo, sono ispirati un po' a questo, e alla fine lui uccide il suo fratello. A questo punto lui divide quest'ultima vita, cioè quella di Ginesi del 2800, dove siamo in un mondo dove non c'è più niente, dove non ci sono religioni, dove non c'è misticismo, dove non esiste la coscienza o il concetto di coscienza, dove non c'è il concetto di un'anima. Siamo in un mondo in cui si crede solo nel pensiero, si crede solo nella scienza, insomma, e quindi un mondo abbastanza arido da questo punto di vista, al portato all'ennesima potenza. Lui però in questo mondo, diciamo che esistono ancora dei piccoli sottostili, chiamati così, che ancora invece credono nell'evoluzione di un'anima, credono nella coscienza, credono nell'esistenza, che nella vita morte. Lui cattura questa sovversiva e si innamora, e a quel punto poi alla fine lui si immola per salvarla, quindi in un certo qual modo chiude il suo ciclo karmico facendo un gesto d'amore e d'altruismo immenso, ecco, dona la sua vita per un altro. Questo un po' è il succo del racconto, ecco, di quello che ho fatto. Piuttosto articolato. Senti, com'era nata l'idea di partenza? Era nata sempre col discorso di voler fare una riflessione, ecco, porci delle domande, far sì che anche gli altri si potessero porre delle domande importanti, che magari oggi ci sfuggono un pochino, perché siamo in una vita molto frenetica, molto fast food, una vita che non ci pone verso l'attenzione a ciò che facciamo. Cioè non poniamo più attenzione a nulla, noi andiamo nei supermercati, compriamo, mettiamo nei carrelli, andiamo a casa a mangiare, non sappiamo cosa mangiamo, non sappiamo chi è che ci fa mangiare, perché questa cosa è così o in un altro modo. Non ci facciamo più delle domande che invece prima erano molto importanti, cioè, almeno in passato, ma anche nel passato prossimo, almeno la vita meno frenetica di questa ci dava la possibilità, il tempo di pensare. Ecco, io in un certo senso vorrei che il pubblico, come me lo sono fatto io, si potesse fare una domanda sull'esistenza, ecco, non tanto sul perché viviamo, ma sul come viviamo, che è una cosa più importante, il perché viviamo, il perché esistiamo, cioè diciamo che è una domanda sarebbe cosmica, che sarebbe impossibile rispondere, e non c'è neanche questa presunzione di farlo, però il come viviamo, porci una domanda, ecco, intanto lo spettacolo non vuol dare risposte, ma vuole aggiungere domande, vuole fare una domanda per porsi che magari il pubblico se ne pone un'altra, poi un'altra, e poi piano piano a sapere come stiamo vivendo e a capire che ci accadono cose, e che queste cose che ci accadono non sono mai casuali, e che a volte nella vita ci capita di subire un torto, e poi a un certo punto, dopo un po', lo stesso torto noi lo facciamo un altro, senza avere più la coscienza e la consapevolezza di ciò che abbiamo vissuto. A volte si pensa alla vendetta addirittura, cioè subisco un torto, allora magari per vendicarmi faccio lo stesso torto a qualcun altro. Ma che significa? Cioè, allora, quando io ho subito un torto e ho subito magari qualcosa di importante, ho sofferto, dovrei in qualche modo non farlo provare a nessun altro. Invece noi a volte ci dimentichiamo che siamo stati vittima e diventiamo carnefici. Poi a un certo punto succede il contrario e ci dimentichiamo di tutto, anche in una sola vita. Diciamo che il fatto della reincarnazione, certo, per chi ci crede va benissimo, ma per chi non ci crede va bene lo stesso, perché comunque è una metafora, è un modo per dire che anche in una sola vita noi cambiamo. Cioè io, per esempio, non accetto quello che ho fatto quando ero piccolo, nel senso, chi era quello? Non ero io, cioè per rifarmi a Pirandello, siamo 100.000 io, vabbè, il mio io di quando avevo 10 anni, che faceva delle azioni, cioè, io non sono più quello, ero un'altra persona, non so se a te mai ti è venuto questo pensiero, però a me stesso, cercando di me stesso nella mia stessa vita. Quindi diciamo che in un certo senso vuole essere questo, ecco, un input, un modo per far riflettere, per andarcene dopo lo spettacolo e dire vabbè, però ci sono effettivamente delle cose che sono un po' da una parte inspiegabili, dall'altra magari se ci mettiamo un po' a riflettere forse qualche spiegazione o qualche altra domanda che ci dà la possibilità di aprire dei nuovi imbrezzi, insomma, alla nostra coscienza. Sono cose molto importanti, ma non lo dico solo io, ecco, diciamo che il teatro dà un contributo a questo, deve darlo, perché poi il teatro non è che costa solo intrattenimento, per carità, ci sta, è giusto che sia anche così, però deve anche fare in modo che il pubblico sia attivo, che arrivi un pensiero, che quando se ne va a casa porta a casa anche qualcosa di quello che ha visto, e non soltanto, no, l'intrattenimento che fa ridere o piangere. Questa è la lezione brechtiana, penso che ce la dobbiamo portare dentro e che debba, anzi forse ancora oggi, forse soprattutto oggi, deve essere viva, viva in tutti noi. Lo spettacolo Vite di Genius della compagnia Libero Teatro al Campania Teatro Festival venerdì 2 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento a Max Mazzotta che lo ha scritto, diretto e interpretato. Grazie. In bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie il lupo, grazie a te, grazie a tutti, ciao. Con Michele Loti, direttore artistico della 17ª edizione del Giardino delle Esperidi Festival, nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza dal 24 giugno al 4 luglio 2021. Ben trovato. Ben trovati a voi. Spieghiamo a chi non lo conoscesse cos'è questo festival. Esperidi è un festival che si svolge in un territorio particolare che è quello del Monte di Brianza, che è una zona molto bella, a nord della Brianza sotto il lago di Como, ed è un festival che ha la caratteristica di svolgersi all'aperto, di svolgersi col teatro immersivo nei sentieri, all'interno dei boschi, piuttosto che nelle corti o su paesaggi mozzafiato che danno su tutta la pianura. È un festival che si nutre di paesaggio e che si nutre di arti performative e che si nutre anche di sperimentazione. Nel senso che è un festival che poi in 17 anni di storia è partito originariamente come un festival di ospitalità, di fatto è diventato un festival di produzione, per cui alcuni spettacoli, alcuni concerti, alcuni performance sono ospitate, molti invece sono realizzati apposta per il festival. Quanti gli appuntamenti di questa edizione? Sono 25, molti con più repliche perché sono per pochi spettatori alla volta. Ci sono installazioni permanenti, ci sono talk in cui si parla di teatro, natura e performing art, ci sono momenti performativi di teatro immersivo in cuffia, ci sono spettacoli da palcoscenico e poi ci sono tanti concerti, DJ set e momenti musicali. Quali sono stati i criteri di scelta? Hanno più caratteristiche, cioè da una parte sicuramente sono legati al teatro nella natura e al teatro nel paesaggio, quindi a partire da questi filoni particolari ci sono alcuni artisti, alcune compagnie e alcuni gruppi che lavorano da anni in maniera approfondita e quindi abbiamo scelto alcune produzioni, specialmente nuove produzioni che avessero a che fare con queste compagnie o con questi artisti che hanno questa sapienza. In altri casi invece sono produzioni che sono nate per il festival, quindi di fatto delle produzioni del festival. In altri casi ancora, parlo specialmente della musica, sono collaborazioni perché spesso artisti passano per il festival e non sono necessariamente artisti di teatro, ma sono appunto anche musicisti, danzatori, poeti, e ci hanno dato delle suggestioni su delle trasformazioni del loro lavoro da fare nel paesaggio in questi luoghi. Quindi da questo sono nate delle sperimentazioni di DJ set, dei momenti di silent disco o dei momenti performativi magari che hanno a che fare con il visivo, con la realtà aumentata e con momenti invece di sonorizzazione degli spazi nati apposta per il festival, qui diciamo che è un po' una commistione di incontri e di incroci. Poi in alcuni casi invece sono alcune anche prime o anteprime nazionali di artisti a cui siamo particolarmente legati e che stimiamo molto, faccio un esempio, Vico Quarto Mazzini con la loro produzione di Vore, piuttosto che Arianna Scommegna con la propria produzione e lettura sugli alberi, piuttosto che Principio Attivo Teatro che viene dalla Puglia e porta una sua produzione con Silvia Lodi in scena, quindi in realtà è un po' un mix di incontri. Detto questo, ogni giornata

ci siamo aiutati ovviamente con i contatti della rete, ma abbiamo anche creato un bando, per esempio per quanto riguarda la giovane creatività. Noi abbiamo anche un'attività, noi siamo una residenza artistica, anzi siamo un organismo che fa parte del centro di residenza artistica della Regione Lazio, scusa, di centro di residenza della Regione Lazio, che si chiama Periferie Artistiche, e quindi abbiamo diciamo una vocazione anche allo scouting e alla promozione di spettacoli delle nuove generazioni. E abbiamo pensato di fare un bando che si chiama Portraits on Stage, abbiamo coinvolto anche gli altri promotori e attraverso quello abbiamo fatto una selezione, abbiamo trovato dei vincitori e li abbiamo programmati. E poi appunto, ripeto, la nostra osservazione di quello che c'è diciamo sul territorio nazionale avviene soprattutto grazie alla rete, e ci sono, ripeto, moltissimi spettacoli che possono entrare a far parte di quest'idea, no? Di questo Portraits on Stage. Abbiamo anche una sezione che si chiama Il Sentiero dei Piccoli, dove diamo spazio degli spettacoli di teatro per le famiglie, ma diciamo con un'attenzione ai bambini, e dove l'arte viene spiegata ai bambini. E sono molto orgogliosa di questa sezione perché non è un fatto scontato. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli? Noi siamo su Facebook, sia come Portraits on Stage, sia come Settimo Cielo. Il nostro sito è www.settimocielo.net e abbiamo ovviamente anche un numero di telefono, ma forse la cosa più pratica e anche più facile da ricordare è il sito. Naturalmente abbiamo anche la possibilità di fare comprare al pubblico biglietti via internet, per cui Ticketgate, su Ticketgate. Poi abbiamo, dicevo, una mail dedicata che si chiama prenotazioni@settimocielo.net. Ricordo che è necessario prenotare perché siamo ancora in una situazione insomma complicata, quindi i posti sono a sedere, posti numerati, assegnati e distanziati, per la sicurezza di tutti naturalmente. Il festival multidisciplinare Portraits on Stage, Arte in Cammino, nella Valle dell'Aniene, dal 19 giugno al 30 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Gloria Sapio. Un in bocca grazie al lupo mille, e a presto. Grazie. A prestissimo, veniteci a trovare, sono posti fantastici, vale la pena. Siamo all'agenda della settimana teatrale con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Beh, insomma, una settimana che vede Roma impegnata in due progetti abbastanza grandi ed estesi, quello di dominio pubblico e quello di fuori programma, con coda polemica, nel senso che dominio pubblico, così come gli spettacoli in programma al Teatro India nelle scorse settimane, è stato bloccato dallo sciopero del sindacato di Bersind, e diversamente era appunto previsto nelle settimane precedenti, però dominio pubblico ha preso, come si dice, baracca e burattini e ha portato tutto allo spazio Rossellini, dove il festival è finalmente cominciato e sta andando avanti. Il festival pensato, diretto, ideato e portato diciamo sul palco da ragazzi under 25, questo è sempre una cosa da ricordare, e che segnala una particolare attenzione al teatro da parte delle generazioni più giovani. Per quanto riguarda il resto delle cose, adesso parleremo anche un po' nel dettaglio, partirei dal fatto che cominciamo avanti questo progetto, diciamo un po' un'opera performance firmata da alcune artiste lituane che cerco di pronunciare, è Lina Lapedite, Vaiva Grainite e Rugile Barzgiukaite. Lucia Pietro Iusti, che in qualche modo ci aiuta ad essere unico nome italiano, perché c'è questo vestimento italiano. Star MC è il titolo di questa opera performance, che vince, diceva, la Biennale Arte 2019, ed è una distesa di sabbia all'interno del Teatro Argentina, che sarà diciamo frequentabile fino al 4 di luglio. Ancora è un gruppo di bagnanti sdraiati come in un quadro, come un coro universale si mescolerà con le voci per evidenziare il rapporto tra la specie umana e le urgenze del cambiamento climatico. Quindi è un'intenzione nobile quella delle tre artiste lituane che vanno appunto a portare sul palco del Teatro Argentina questa opera performance, che però insomma, in qualche modo è anche una installazione. Per quanto riguarda invece gli altri spazi, andiamo a segnalare anche che continua Radure, nei paesi della regione. Questa settimana sarà l'occasione per vedere domenica 4 luglio in località Segni l'ospite indesiderato, un lavoro curato da, che ne conosciamo bene, che è Bartolini Baronio, che nasce dopo la visita alla chiesa di San Pietro a Segni, ed è una riflessione sulla vita e la morte legata anche a questo bene architettonico, insomma, con le sue caratteristiche, la sua storia, e quindi per andare poi ad affondare nel concetto di vita e morte, secondo poi la Chiesa Cattolica, e il rapporto appunto tra il Tempio e la prima struttura, il rapporto tra la struttura. Questo è quello che sarà l'ospite desiderato del Centro San Pietro a Segni, domenica 4 luglio alle ore 19. Altro punto interrogativo, per quello che abbiamo detto prima, non si sa se questa sera, domani, debutterà Tiresias di Giorgina P. Blue Motion, il testo di Kate Tempest in scena con Gabriele Portoghese, quindi chissà se si potrà andare a vedere, arriveranno aggiornamenti. Segnalo una cosa interessante, sta nascendo a Roma la prima scuola della capitale che è data sulla formazione del personale tecnico nel campo del light design e dell'illuminotecnica, fondata da Francesca Zerilli, Angelica Ferrau, e ha la sede all'interno del teatro Biblioteca Piccolo. Molto interessante, perché i migliori nomi italiani e esteri di illuminotecnica e light design faranno parte di questa scuola. Vado a citare, insomma, da Luigi Biondi a Camilla Piccioni, da Luigi Grenna a Gianni Staropoli, insomma, grandi nomi per un evento tantissimo per il teatro, cioè che merita particolare attenzione. Per ciò che riguarda il resto delle cose a teatro, è anche alla settimana in cui potremo andare a vedere Romeo e Giulietta di Shakespeare al teatro Gigi Proietti, al teatro Globe Theatre, titolato al grande attore Gigi Proietti, con la regia, lasciata in qualche modo da Gigi Proietti, e in scena la giovanissima e talentuosa attrice e musicista Mimosa Campironi nel ruolo di Giulietta. Dal 1 giugno fino al 25 di luglio al teatro Globe Theatre Gigi Proietti. Poi, appunto, parlavamo di dominio pubblico, quindi ora posso segnalare anche il programma della settimana, e in effetti è cominciato durante il weekend con alcuni appuntamenti che mescolano in vari linguaggi, insomma, piuttosto interessante è stato partecipare al primo weekend. Andremo già da questa sera alle ore 19 con questa regia di Valeria Vandia, prossima puntata, che appunto sarà in scena allo spazio Rossellini, come tutto il resto ormai delle cose, per come dicevamo, mentre appunto in questi giorni ci saranno anche delle tavole rotonde con gli artisti, con degli operatori, proprio per riflettere sulla condizione teatrale e riflettere anche sulla condizione della generazione del 25 che si trova ad approcciare a questo mondo. Segnalo venerdì 2 luglio, per esempio, un onesto e parziale discorso sopra i massimi sistemi, un lavoro di Pietro Angelini alle ore 19, sempre allo spazio Rossellini. Insomma, invito ad andare sul dominio pubblico teatro.it per vedere il programma completo. Segnalo anche sabato 3 luglio un particolare appuntamento, il secondo match, un confronto spettacolo tra attori, generazioni e poetiche. Ne andate, ce n'è già uno in questo weekend. Il prossimo, appunto, sabato 3 luglio alle ore 19, vedrà uno incontro-scontro particolarmente esotico, diciamo, perché condurrà Graziano Graziani, ma ci saranno da una parte Nicola Borghesi di Kepler, della compagnia Kepler, e dall'altra Gabriele Lavia, insomma, per rappresentanza di un teatro con la più tradizionale, in scontro un po' con un teatro invece più apparentemente, insomma, più spesso. Da capire e da vedere che cosa succederà. L'altro appuntamento che merita attenzione sicuramente è il Festival Fuori Programma, che è negli spazi attorno al Teatro Biblioteca Quarticciolo, e insomma nel quadrante del Quarticciolo. Questa sera ancora per vedere MAD di Balletto Civile al Parco Alessandrino con il Museo Antropologico del Danzatore. È un percorso che il pubblico seguirà, guidato dalla drammaturgia dei performer, e le guide accompagneranno i presenti nelle varie tappe di MAD, insomma all'interno di questo museo legato a storie e suggestioni che la compagnia Balletto Civile porterà davanti agli occhi, ma non solo agli occhi, degli spettatori. Mentre invece 2, 3, 4 luglio sarà l'occasione per vedere in prima assoluta Simulacro, un progetto site specific creato proprio per Fuori Programma Festival, sempre nel Parco Alessandrino, Marcos Morau, La Veronal, Spellbound Dance Company, queste le firme di questo simulacro, la coreografia, la regia appunto di Marcos Morau, e segnalo semplicemente la frase con cui apre il lavoro. Pochissimi sono capaci di immaginare la realtà. È una frase del grande scrittore tedesco Goethe e che ci introduce verso quello che sarà il progetto appunto di Marcos Morau in scena 2-3-4 luglio al Parco Alessandrino per Fuori Programma. E questo è tutto. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.